9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 13 di gennaio. Mi scuso, ma nel lancio a un certo punto mi sembrava di non essere più in onda per un ritorno di cuffia. Comunque, il tema a cui dedichiamo oggi la trasmissione è un tema in qualche misura collegato al dibattito che c'è stato nei mesi alle nostre spalle, quello in occasione dell'approvazione, dell'esame, dello scontro, delle polemiche, delle tensioni e poi dell'approvazione della riforma dell'Università Gelmini. Ma in realtà ha solo questo tema sullo sfondo, perché nasce da un libro che è in edicola e che secondo me vale la pena, nelle librerie, voglio dire, vale la pena di essere letto. Questo libro si intitola Generazione tradita, gli adulti contro i giovani, ed è l'ultimo libro di Pierluigi Celli, che è il direttore generale della LUIS, quindi Università di Confindustria, ed è un libro che nasce da anch'esso da una polemica, da una testimonianza che ha avuto un eco polemico, perché nel novembre del 2009 Pierluigi Celli pubblicò su Repubblica una specie di lettera aperta a un figlio da parte di un padre, ed era una lettera aperta ispirata a una grande amarezza, l'amarezza di un esponente di una generazione e anche di un uomo che ha avuto importanti incarichi di responsabilità, ha fatto più di 40 anni manager in aziende di primo piano, oltre in questi ultimi anni a dare una potente mano all'università privata italiana, e che alla luce di tutto questo, e avendo ben avuto occasione di attraversare all'interno, orizzontalmente e verticalmente, l'organizzazione della vita economica, imprenditoriale del nostro paese, rivolgendosi a un proprio figlio con amarezza, diceva: quelli della mia generazione hanno perso, non sono stati in grado di consegnarti un paese in cui funziona l'ascensore sociale, in cui ti si mette in grado di formarti al meglio un capitale umano capace di renderti concorrenziale con i paesi più avanzati, e in cui invece le congreghe, le corporazioni, le camarille, le logiche relazionali prevalgono sempre sull'esame del merito e sul premio al merito, e quindi noi abbiamo perso, forse non ti resta altro che andartene. Scoppiò una polemica nei giorni e nelle settimane successive, perché le reazioni a questa lettera aperta, a questo topos, era un canone letterario, un artificio usato per sollevare con energia questo tema, che è uno dei temi del nostro tempo, del nostro paese e del gap comparato del nostro paese. Invece le reazioni che si produssero furono singolari, perché da una parte sulla stessa giornale Repubblica che l'aveva ospitato ci furono reazioni come quella di Benedetta Tobagi, che dice: ma come possibile una provocazione che vede solo gli aspetti negativi di questo paese? Altri, come Aldo Grasso, del Corriere della Sera, scrissero: troppo comodo quando si è esercitati incarichi così alti di responsabilità per tanti anni, non ci si può permettere di parlare in questo modo, perché si è corresponsabili con chi in questo paese non apre i giovani al merito e al talento. Altri ancora, come il professor Tito Boeri della Voce.info, dissero: il direttore generale dell'Università di Confindustria si permette di parlare in questo modo, forse allora dovrebbe dimettersi, visto che dovrebbe egli per primo dover organizzare una università all'altezza dei principi della cui sconfitta oggi dichiara attraverso questa lettera aperta di dolersi molto. In fondo le reazioni furono ispirate molte a un misto di perbenismo, a un misto di, possiamo chiamarla, invidia personale. Io invece, che conosco Pierluigi Celli e l'ho sempre stimato nella vita, non è detto che la pensi sempre allo stesso modo, ma mi ha sempre colpito il modo in cui in ogni azienda dove è andato, la RAI tanto per dirne uno e così via, ne ha saputo poi con coerenza personale anche trarre insegnamenti per sé e per gli altri nei libri, negli scritti che ne ha sempre tirato fuori, ogni volta organizzando quindi occasioni di autoconfronto di sé allo specchio e confronto pubblico. Io ne ho sempre tratto giovamento e ho sempre volentieri riconosciuto a lui che questo metodo applicato da più persone che hanno esercitato ed esercitano responsabilità nella vita italiana, secondo me ci renderebbe tutti più capaci di dibattere in termini concreti sui problemi concreti e senza ipocrisie, anche perché i toni sono sempre trattenuti. Però, visto che la sua provocazione un anno fa ebbe quella reazione, io sono contento che Pierluigi Celle sia ancora oggi direttore generale della Luis di Confindustria, perché secondo me fa bene in quell'incarico, ma molti si augurarono invece che fosse sostituito proprio per questa denuncia che aveva fatto. Ne è nato questo libro, e questo è un libro in cui, con quel tono, con quello stesso tono e partendo da quella polemica, si arriva poi a che cosa in realtà Celli, chi la pensa come Celli, può fare e non può fare in un paese molto ripiegato su se stesso, pronto, come abbiamo visto nel dibattito sulla riforma Gelmini, a dividersi, a spaccarsi, anche a insultarsi, dicendo il merito non c'è, noi chiudiamo il futuro ai giovani per colpa vostra, dandosi reciprocamente colpa l'un con l'altro, un po' meno pronto invece a organizzarsi davvero perché questo ascolto, quello indicato dal Presidente della Repubblica, si traduca poi in decisioni concrete. Ecco, questa è la mia premessa per dire che abbiamo con noi quindi Pierluigi Celli, l'autore, ripeto il titolo, di Generazione tradita, gli adulti contro i giovani di Mondadori. Grazie e buongiorno a Pierluigi Celli. Grazie, buongiorno a voi. Grazie. E abbiamo con noi anche Alessia Mosca, deputato del PD, segretario commissione lavoro alla Camera, che è qui in particolare perché poi, come coda al Gelmini e come coda al tema del brain drain, cioè della fuga dei cervelli, del meglio cioè del universitari italiani che poi vanno all'estero, si formano ancora lì, ancora meglio nell'istruzione post universitaria, poi giustamente, sì, io credo giustamente, i più di loro non tornano in Italia, però si è data da fare con provvedimenti concreti di cui parleremo per tentare di invertire questo esodo dei cervelli. Grazie e buongiorno anche ad Alessia Mosca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Celli, innanzitutto la polemica iniziale, per così dire, la coda di amarezza di quella polemica iniziale e poi è durata poco, è stata solo a sua volta l'espressione di un nervo scoperto della società italiana di fronte a questo tema, o invece la sorprese un anno fa davvero? No. No, fui molto sorpreso, per la verità me l'aspettavo, sai, quando uno fa una provocazione sa di provocare, le reazioni se le deve aspettare. Il risultato però fu che di un tema di cui non parlava nessuno in sostanza, si cominciò a parlare in maniera crescente. Da allora i giornali sono pieni di articoli, inchieste, ricerche che in qualche modo mettono in evidenza come la generazione tra i 18, 19, 25, 30 anni è una generazione sostanzialmente senza approdo. E questo è, se non altro, un buon terreno di riflessione, di confronto per cercare delle soluzioni, se ci sono, e io credo che ci possano essere, per arrivare a dare a questi ragazzi una prospettiva di lavoro e di ancoraggio anche al paese, quindi a restare nel paese oppure a tornare al paese. Tuttavia, se un paese funziona nelle sue riflessi condizionati, prima ancora che nei suoi comportamenti organizzativi, nelle sue strutture organizzative, se un paese alla fine funziona in maniera convergente verso l'addossare le esternalità negative, per esempio del mercato del lavoro, dall'inizio degli anni 2000 solo alle giovani generazioni, il raddrizzamento del conto previdenziale nazionale sono a chi andrà naturalmente e a pieno regime la riforma della pensione contributiva Dini, rispetto a chi invece continuerà a godere per lunghi anni di una lunga, troppo lunga transizione a favore del retributivo, e così via. Questi sono i primi soli due esempi, ma in realtà se uno va a vedere come è organizzata la corriera nel settore pubblico, se uno va a vedere anche nelle aziende private, a dire la verità, allora, se c'è un comportamento così convergente di tutti i meccanismi di fondo del bilancio intergenerazionale, non è che si tratta di una scelta precisa che è stata fatta nel nostro paese? Ma io non credo che ci sia, questo è un paese in cui le convergenze sono casuali e poi diventano definitive perché nessuno ha voglia oppure ci riflette su e vuole tornare indietro. No, io credo che ci sia tutta una serie di comportamenti istituzionalizzati ormai che tendono a legittimare il fatto che tutto sommato le nuove generazioni sono anche dimensionalmente, quantitativamente, essendo quantitativamente meno numerose finiscono per diventare irrilevanti sostanzialmente. E in ogni caso tutelare quelli che le garanzie ce le hanno già garantisce quantomeno nell'immediato di avere più sicurezza. Questo è un paese che ha soprattutto, credo, una esasperata autoflessione su un presente prolungato. E quindi tutto sommato manca di prospettive per il futuro, questo è un fatto fondamentale. Se tu allarghi i tuoi interessi su un presente che deve essere dilatato il più possibile, perché è quello che conosci meglio, è quello che in ogni caso sai sfruttare meglio, erodi progressivamente il futuro, e siccome il futuro è più dei giovani che dei vecchi, in ogni caso toglie ai giovani la prospettiva. Allora, una delle maniere concrete con cui si è tentato recentemente, poi più avanti avremo con noi dopo le 9.30 anche il ministro della gioventù Giorgia Meloni, ma intanto in Parlamento, in occasione del voto di provvedimenti, insomma in coda un pochino ai provvedimenti, quelli di bilancio, sessione di bilancio, eccetera, eccetera, c'è stata una delle poche occasioni bipartisan in cui si è tentato di mettere in funzione un nuovo strumento per iniziare a garantire una possibilità, per così dire, di controdiaspora del meglio dei cervelli nel nostro paese. E quindi è passato con un voto bipartisan un provvedimento di incentivo fiscale volto a questo, e con un'incentivazione quindi in particolare per i giovani e un'aggiuntiva anche per le donne. E se non che anche lì poi mi ha colpito perché è nata una polemica, ed è nata una polemica proprio animata da molti di quelli, dei pochi anzi, con cui di solito condivido le battaglie, cioè da liberali e liberisti, che hanno detto no, però se fate così voi venite meno poi di fronte alle garanzie di eguaglianza che bisogna mantenere il nostro ordinamento, non è con sgravi fiscali per giovani e donne che si garantisce qualcosa. Io non credo affatto che chi ha votato quel provvedimento pensasse semplicemente a complicare in maniera ancora più barocca il nostro ordinamento fiscale. Tentava di dare un segnale, e il segnale tentava di darlo con gli incentivi. Poiché Alessia Mosca del PD è stato insieme a coloro che hanno espresso quel voto, chiedo a lei, ci illustra un secondo in concreto come funziona questo incentivo al rientro? Qual è la sua filosofia? Sì, molto brevemente, questo è un incentivo che si rivolge intanto ai ragazzi che hanno meno di 40 anni, che siano cittadini italiani o cittadini dell'Unione Europea, che abbiano vissuto per almeno 24 mesi fuori dal nostro paese, lavorando o conseguendo un titolo di studio di livello di laurea o universitario o post universitario, e che decidano di rientrare nel nostro paese. Nel momento del rientro la loro base imponibile viene ridotta al solo 30% per quanto riguarda gli uomini e al solo 20% per quanto riguarda le donne, per un tetto massimo di beneficio fiscale di 200.000 euro. Quindi diciamo è un piccolo aiuto, e ci rendiamo benissimo conto che non è solo l'elemento di riduzione delle tasse che fa propendere la decisione di un giovane di rientrare in Italia, però abbiamo pensato che questo potesse essere davvero un primo segnale di interesse da parte del Parlamento, che per la prima volta si è fermato a discutere, prima alla Camera e poi al Senato, di questa tematica che meritoriamente per Luigi Celli ha sollevato in modo così provocatorio, ma anche meritorio, proprio perché appunto ha consentito che ci fosse un dibattito, ha consentito anche che il problema venisse affrontato quantomeno con questo primo mattoncino. E le polemiche lei come se le è spiegate? Perché sono venute da un mondo un po' a sorpresa, per così dire. Sì, io non sono rimasta sorpresa di queste polemiche, perché in realtà quando abbiamo iniziato a discutere di questa proposta di legge 2 anni fa avevamo fatto una serie di dibattiti, e dai diretti interessati, quindi dai potenziali beneficiari di questa legge, abbiamo ricevuto una valanga di critiche, una valanga di risposte molto arrabbiate, che però abbiamo tutti letto, e quindi per questa ragione abbiamo continuato e abbiamo portato portato avanti la nostra proposta, abbiamo letto come una espressione di amore e odio nei confronti del nostro paese, cioè da un lato un odio di coloro che sono stati in qualche modo costretti a dover andare altrove per poter vedere riconosciute le proprie competenze, ma al tempo stesso anche l'amore, la volontà comunque di dare un contributo per illustrarci che cosa non stesse andando. In realtà poi questa, accanto a tutte queste polemiche che sono state e queste critiche che si sono viste soprattutto in rete, sui blog eccetera, abbiamo ricevuto anche molto sostegno e molto apprezzamento di quando, nel momento in cui abbiamo cominciato a entrare un po' più nel merito e a spiegare che questo voleva essere solo una, un modo per aprire una strada nella direzione di indirizzarci a questo mondo. E quindi in realtà io penso che quello che ha fatto molto rumore come polemica sia solo una parte di quella insoddisfazione che è evidente e che ha trovato in questo modo la possibilità di esprimersi. Naturalmente io ho gli ascoltatori che sono subito scattati a sentire parlare di ragazzi fino a 40 anni, e del resto questo non è una mosca che si esprime male, e il problema è che la torsione in avanti di questa frontiera della gioventù è l'idea di una società che è invecchiata, questo è il problema. E il problema è però che oggi come oggi che tutti coloro che arrivano fino ai 40 sono in questa condizione di compressione dell'ascensore sociale, del riconoscimento del merito, della precarietà nel mondo del lavoro e così via, cioè di essere quelli su cui si è concentrato un classico raddrizzamento di costi di transazione negativi. Questo è il punto, è un problema che si è accresciuto con il meccanismo attraverso il quale l'Italia ha fatto bene entrare nell'euro, ma ha fatto bene entrare nell'euro concentrando anche lì solo su alcuni ambiti del nostro mondo economico il raddrizzamento, praticamente sulla manifattura che esporta, tutto il resto resta a bassa produttività perché ha meno concorrenza. Ecco, questo stesso meccanismo di una selezione di coloro su cui si concentrano i costi di transazione troppo alti in ambiti troppo elevati del nostro mondo economico ha come contraltare il fatto che si concentrano su classi, centure generazionali molto precise, dei costi intergenerazionali che prima non c'erano e che andrebbero spalmati, che andrebbero evitati dal basso, perforando per così dire il peso di questi interessi corporativi. Ora, uno degli aspetti secondo me più interessanti del libro Generazione tradita, di adulti contro giovani di Pierluigi Celli, è che non è che si tiri indietro il direttore generale della LUISS da prendere come al solito per le corna il problema innanzitutto dell'istituzione in cui lavora, sia pure un'università privata come quella della LUISS, e quindi a un certo punto c'è un bel capitolo in cui spiega in maniera tagliente come attualmente il problema dell'università è quella di praticamente, adesso io la dico ancora più provocatoriamente, ma insomma levarla ai professori, perché l'università non deve essere gestita dai professori, se no succede quello che succede. Cioè che cosa succede, Celli? Ma dunque, sì, detto così è un po' brutale, per cui chiariamo, perché non le voglio creare problemi. No, assolutamente, puoi immaginare. No, io, le mie ipotesi di questo tipo, lavorando in un'università privata che oltretutto ha un'organizzazione e una struttura di governance duale, nel senso che vuol dire c'è una parte accademica che è governata dal rettore, c'è una parte organizzativa, gestionale, amministrativa che è governata dal direttore generale. L'università è un luogo in cui evidentemente i ragazzi vengono per studiare, per imparare, eccetera, eccetera, ma è un luogo che si è sedimentato per via disciplinare, nel senso che ogni professore insegna la sua materia, l'interazione tra i professori, tra materie è praticamente nulla, ogni ragazzo è da solo rispetto al processo di apprendimento, eccetera, eccetera. Alla fine, se tutto va bene, se l'università è buona, se i professori sono bravi, eccetera, eccetera, ne esce fuori un ragazzo che ha imparato bene delle cose, che però non ha alcuna esperienza di come queste cose possono funzionare nel mondo del lavoro o nel mondo della ricerca in cui viene chiamato, in cui sarà destinato a operare. Cioè c'è un problema di formazione, che non è semplicemente di istruzione, che riguarda la modalità con cui noi mandiamo sul mercato del lavoro i ragazzi che in qualche modo frequentano l'università. Li mandiamo in un mondo in cui il lavoro è cambiato enormemente, si è frammentato, precarizzato, eccetera, eccetera, e li mandiamo con teste o con, come dire, modalità di preparazione che sono legate a un mondo precedente, seppur non avevano venuto nel mondo precedente. Quindi c'è un problema di riorganizzare l'università, immettendo a un certo punto del processo formativo competenze, saperi, pratiche, eccetera, eccetera, che in qualche modo derivano dai mondi in cui poi gli utilizzatori dell'università andranno a finire. E questa cosa non può essere lasciata in mano solo ai professori che del mondo del lavoro raramente conoscono qualcosa. Aspetti, qui adesso la fermo per la pubblicità, ma su questo stesso filone terminiamo poi la risposta alla domanda, perché quanto poi dipende anche dalla responsabilità dalle imprese, perché d'accordo i professori tendono su questo a comportarsi in maniera corporativa, però forse c'è anche una questione che riguarda il mondo, certo, dell'economia. A tra poco, intanto pubblicità. Eccoci tornati in studio, parliamo della generazione tradita, gli adulti contro i giovani, che è il tema di oggi ed è il tema e il titolo anzi del libro per Mondadori di Pierluigi Celli, che ospita con noi insieme ad Alessia Mosca, deputato del PD. Ho interrotto a metà una risposta di Celli, parlavamo del fatto che non bisogna lasciare ai soli professori universitari l'apertura della formazione ai saperi che sono fuori, e io gli ho chiesto, ma non è che su questo c'è anche una responsabilità però delle imprese? Ma io credo che le imprese abbiano anche loro una loro responsabilità. Non a caso c'è un capitolo dedicato alle imprese, se l'impresa avesse un animo, che vuol dire che in gran parte l'hanno persa. Hanno una responsabilità perché le imprese tradizionali, che non, purtroppo non ci sono più, ma o per fortuna, dipende poi dal punto di vista, avevano una loro filosofia di introduzione dei giovani nel mondo del lavoro, che era attraverso la formazione. Oggi sempre meno questo viene fatto, un po' perché sono venute a mancare le grandi imprese, ne abbiamo sempre di meno, un po' perché sono venute a mancare quelle che erano le tradizionali scuole di formazione manageriale delle imprese, per cui le imprese tendono ad utilizzare immediatamente il ragazzo che gli viene in maniera segmentata, frammentaria, precaria, per fare dei lavori specifici. Quindi spostandoli tutte le volte che poi non gli servono più, prendendone altri. Viene a mancare al ragazzo che entra nell'impresa l'imprinting iniziale al lavoro, alle logiche del lavoro, alla modalità con cui si lavora, alla lettura dei climi lavorativi, eccetera, eccetera. Perché il ragazzo che deve passare da un lavoro all'altro non si affeziona, evidentemente, pensa che tutto sommato ci resterà poco perché poi dopo andrà a fare uno stage, un tirocinio o un cocopro da un'altra parte, nell'impresa investirà su questi ragazzi in maniera produttiva. Ecco perché l'università ha compiti aggiuntivi a questo punto, cioè ha compiti per cui deve attrezzare il ragazzo, attrezzare soprattutto la testa del ragazzo, non solo quindi, ad una competenza specifica, in un settore, quindi segmentata anche lei, deve attrezzarlo ad avere una testa flessibile, in grado di leggere i cambiamenti, di leggere le nuove modalità del lavoro, di interpretare le nuove modalità di lavoro, di capacità comunque di lavorare anche in condizioni molto diverse da quelle che erano una volta. Ora, io devo dire la verità, con lo stesso spirito con cui nella polemica pubblica di un anno fa ho difeso l'idea che il direttore generale dell'Università di Confindustria potesse esprimersi con quella sincera amarezza, e che era anche un artificio letterario, ma per sollevare il tema da chi invece dice ma come uno che ha quell'incarico, ci pensi lui a rispondere, se non è all'altezza se ne vada. Allo stesso modo mi piace sottolineare che avere appunto un dirigente generale dell'Università del Confindustria che ha il microfono radio di Confindustria dice guardate qui c'è anche un problema però che riguarda le imprese, perché le imprese non hanno un'anima, molte di quelle che avevano un'anima non ci sono più, la grande tradizione dell'apertura delle scuole di management delle grandi imprese non c'è più. Ecco, questo mi piace sottolineare, che anche questa è una cosa per me positiva, perché bisogna sapere vedere i difetti in ogni angolo di ogni casa, cominciare dalla propria, invece che puntare, come abitudine eccessiva del dibattito italiano, ciascuno il dito contro gli altri. In questo spirito chiedo al Ministro della Gioventù, che si è aggiunta a noi, Giorgio Meloni. Buongiorno Ministro. Buongiorno a voi. Chiedo Io mi rendo conto che lei ha un incarico un po' difficile, cioè un incarico un po' da castigamatti, perché quando succede che un paese intero poi va, e alla fine è andato pure per qualche giorno a ferro e fuoco, per fortuna solo per qualche giorno, ma insomma va in grande rovente polemica sul tema dei giovani, che non si dà un futuro, l'università, i ricercatori e così via. Poi il problema è che lei si trova a doverne rispondere, e però anche nel suo caso la politica è organizzata in maniera del tutto a specchio rispetto a quello di cui stiamo parlando, come la scuola, come l'università, che è per chi ci lavora, come le imprese che fanno pagare alle giovani generazioni i costi di transazioni eccessivi che non hanno saputo accollare e spalmare alle generazioni precedenti, vedi mercato del lavoro e forme di contratti a tempo e così via. Però anche in politica vale lo stesso principio, perché poi alla fine lei si trova a dover rispondere nei dibattiti a chi come me la chiama eccetera eccetera, però la politica mica le ha dato le risorse a lei per poter davvero risolvere. Quindi le chiedo, nel suo caso non è un'altra controprova di un sistema convergente verso parlare a parole di problemi che vengono riconosciuti, ma purché se ne parli, perché in realtà le risorse e quindi le soluzioni, ciò che conta davvero, va in tutt'altra direzione. Un po' si vede anche nei poteri che ha lei, e non è per polemica a lei, come può capire, ma è per dare una mano che glielo chiedo. Dunque, allora, io direi che la risposta è no. E però poi vorrei parlare un attimo della politica nel suo complesso. Cioè, il problema non è tanto la competenza di Giorgia Meloni, perché la mia idea del tema politiche giovanili, non è un caso che io abbia cambiato il nome al ministero, no, perché io non credo nelle politiche giovanili. Cioè, penso che la sfida di investire sulle giovani generazioni, e cioè esattamente quello che è mancato alla mia generazione, sia la capacità di far percepire a 360 gradi a chiunque sieda nel Consiglio dei Ministri il risultato di quello che sta costruendo, proiettato di qui a 30 anni. Cioè, se quando negli anni belli dell'economia si fosse scelto di mandare la gente in pensione a 40 anni, noi avessimo avuto nel Consiglio dei Ministri una persona che diceva: guardate che questo costo lo state scaricando verso gente innocente e quindi non si può fare, la mia generazione non avrebbe ereditato l'Italia che ha ereditato. Ergo, il Ministero della Gioventù in realtà non potrebbe mai avere complessivamente le risorse che servono. Il Ministero della Gioventù deve però riuscire ad avere una credibilità presso tutti gli altri colleghi di governo e quindi una solidarietà. Cioè, se noi partiamo dal presupposto che ci poniamo il problema di che cosa lasciamo dopo di noi, e quindi ogni provvedimento che portiamo avanti, fosse anche sul tema dell'autosufficienza energetica, lo misuriamo con l'impatto che avrà sul, non solamente sulla prossima scadenza elettorale, ma sui prossimi 10 anni, 20 anni, 30 anni, allora noi ci siamo finalmente occupati di giovani. Il problema è che manca spesso questo, diciamoci la verità, cioè noi comunque abbiamo una realtà nella quale i giovani sono sempre di meno, perché poi c'è anche questo problema, cioè il problema della denatalità, i giovani in Italia sono sempre di meno, molti non vanno a votare, quindi diciamo che il mercato elettorale che è dato dalle giovani generazioni è sicuramente un mercato elettorale abbastanza contratto. Rispetto a quel mercato elettorale, delle volte alla politica, o spesso alla politica, conviene privilegiare altri ambiti. E questo è il motivo per il quale purtroppo noi abbiamo passato il primo dell'anno e i giorni, insomma, da, diciamo, dalla riforma del voto della riforma dell'università ad oggi, parlando della questione giovanile, disoccupazione giovanile, il Presidente della Repubblica, tutti hanno parlato di quanto sia importante investire sulle giovani generazioni. Ma purtroppo la stessa attenzione, la stessa solidarietà a 360 gradi che c'è stata in questi giorni, a parte della società, io che faccio il ministro della gioventù, purtroppo non la riscontro sempre. E dico, da parte della politica, le faccio un esempio, Giannino. Quando io ho portato in Parlamento la legge sulle comunità giovanili, che era una legge che non faceva altro che istituire in Italia spazi di aggregazione, magari nelle periferie delle grandi città metropolitane, magari dove c'è solo appunto la noia, il degrado, no? Cioè, stavamo cercando di costruire degli spazi che potessero, anche nei quali si potesse fare, voglio dire, dalla musica fino alla formazione professionale. Quella è stata una legge che alla fine è stata rimandata in commissione perché era la legge sulla quale diversi esponenti politici della maggioranza e dell'opposizione hanno pensato di poter sfogare le proprie diciamo così, difficoltà, le proprie, magari avevano dei problemi col proprio partito di riferimento, piuttosto che perché si ritiene che una legge interamente dedicata ai giovani sia una legge sacrificabile, perché si ritiene che sia il tema sul quale, se tu vai anche contro il tuo partito, il tuo governo, e quindi insomma trasversalmente a maggioranza opposizione, nessuno ti dirà niente. E quella era, per cui c'è un valore simbolico, per questo lo racconto, quella era la prima legge interamente dedicata ai giovani che arrivava in Parlamento in, io ho ricostruito almeno 4 legislature, ma potrebbero essere 10 per quello che ne sappiamo, ok? Sì. Allora, questo problema è un problema che effettivamente c'è e che poi impatta ovviamente soprattutto sul tema disoccupazione, sul tema investimento dei giovani. Devo dire che da questo punto di vista il governo ha fatto una serie di scelte che a me hanno dato grande soddisfazione, perché vuol dire che siamo riusciti a fare questo discorso. Il tema della riforma della scuola e dell'università è il primo tema, perché poi noi avremmo potuto rimandare e non porci il problema del fatto che la nostra scuola, la nostra università non formano i ragazzi. Invece abbiamo scelto di metterci mano pesantemente, ci siamo beccati le manifestazioni, come sempre quando si tenta di cambiare qualcosa, ma abbiamo deciso di cambiare qualcosa. Abbiamo deciso di non porci solamente il problema dei 3.000, 4.000, 5.000 precari, dei 3.000, 4.000, 5.000 singole persone che lavorano nell'università. Ci siamo posti il problema di costruire un'università che possa garantire a chiunque ci studia dentro di trovare un posto di lavoro, che è la sfida che dovrebbe avere una nazione degna. Noi abbiamo, in un periodo di crisi economica, ci siamo posti il problema di trovare una forma di ammortizzazione anche per una serie di categorie del lavoro atipico, investendo su questo 9 miliardi di euro, mentre complessivamente trovavamo 34 miliardi, penso che sia stata una scelta di grande coraggio nei confronti di ragazzi giovani. Ma di questa roba qui nessuno parla. Cioè io, e la ringrazio perché noi di questo invece nell'ultimo mese con lei abbiamo parlato almeno 3 volte, quindi viva Dio c'è ancora qualcuno che su questo ha attenzione, ma io mi sono arrabbiata per dire con un importante quotidiano che non citerò, perché quando ho presentato i 300 milioni di investimento del Ministero della Gioventù sul tema dell'occupazione giovanile, prima ci fosse appunto l'intervento del Presidente della Repubblica, il grande dibattito, i giovani, i non giovani, eccetera, noi abbiamo investito 300 milioni di euro, Tremonti ancora non si capacita a chiedere in giro come, dove stavano questi soldi della Meloni, no? Beh, è un investimento importante. Io mi ricordo di essere arrabbiata con un importante quotidiano che sono praticamente finita nella pagina del costume. Lo so, ma l'Italia, lei lo sa, è molto più appassionata ai dibattiti, ai tornei oratori da bar sport che a davvero capire come poi si muove qualcosa in concreto, che effetto avrà, misurare concretamente nel tempo poi che cosa si è messo in atto. Anche perché davvero, chiedo scusa, a me, che sono una persona che non ha la presunzione che spesso ha la politica, cioè di avere sempre la risposta migliore per tutto, a me piacerebbe che su una singola misura sulla quale che mettiamo in campo ci fosse un dibattito che consente anche di valutare bene pro o contro, no? Cioè, consente anche di migliorare i singoli provvedimenti, ma questo quando si parla dei giovani non c'è, semplicemente non interessa. Allora, prima di arrivare con Celli a vedere che cosa concretamente si può fare, lui per esempio che cosa ha tentato di fare, perché poi anche quella lettera nasceva da una vista nella Locrida in Calabria, cioè uno dei punti in cui si addensa in maniera più pesante, proiettando ombre più lunghe nel tempo, il problema del malessere, del disagio, della mancata risposta alle giovani generazioni, nasceva proprio da una visita in Calabria quando l'ha scritta quella lettera un anno fa sull'aereo per tornare a Roma. Sentiamo qualche ascoltatore a che cosa è stato indotto a pensare dalle considerazioni che abbiamo fatto fino a questo momento. Cominciamo da Gaetano che ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno a tutti, intanto buongiorno. Un ringraziamento al professor Celli per questo libro che apre un dibattito molto importante, anche se io parlerei di generazioni tradite, quelle dei quarantenni, dei trentenni e dei ventenni di oggi. Speriamo che tra qualche anno non ci dobbiamo mettere anche decenni, quelli che hanno 10 anni oggi. Comunque la mia proposta in relazione, diciamo, alla situazione dei giovani era questa. Le problematiche per cui oggi i nostri giovani si trovano in una grandissima difficoltà, non trovano prospettive ed occupazioni, sono di diversa natura, perché non c'è sviluppo e crescita nel paese, perché i cicli scolastici ed universitari non sono allineati a quelli del mondo europeo, per esempio, perché la competizione tra giovani ormai è aperta anche a tutti i paesi europei. Io dico che una piccola proposta per andare incontro all'esigenza di creare opportunità per questi giovani potrebbe essere quella di trasformare quella che veniva stata fatta di proposta per far rientrare i giovani in Italia, quello sgravio fiscale per quella di cui abbiamo parlato con Alessia Mosca un attimo fa. Farla diventare strutturale. In questo modo, a mio parere, le imprese hanno un vantaggio con un costo del lavoro più basso introducendo i giovani hanno un vantaggio fiscale, quindi possono avere qualche lira in più per poter vivere nel nostro paese. L'ulteriore vantaggio che vedo in questa proposta di rendere strutturale questa riforma sarebbe quello di avviare un processo graduale di tassazione al mondo del lavoro, perché io immagino che una vera e propria trasformazione della tassazione del mondo del lavoro non si potrà mai realizzare in Italia, considerando quanto è tassato. Avviandolo invece gradualmente, cioè le nuove generazioni che entrano nel mondo del lavoro hanno una tassazione diversa, avendo riformato anche alcuni ammortizzatori sociali, le pensioni e quant'altro. No, Gaetano, hai chiarito l'idea. Qui c'è un grande problema di fondo, perché identificare una gradualità nel senso di incardinarla su classi generazionali pone grandi problemi. In realtà è lo stesso tipo di polemica suscitata poi nei confronti del provvedimento che ci spiegava Alessa Mosca, proprio da chi ha a cuore l'idea di eguaglianza e l'idea, ed è contrario all'idea di moltiplicare gli incentivi ad hoc. Che cosa voglio dire? Voglio dire che diversificare la pressione fiscale, sia pure con l'obiettivo di estenderne poi nel tempo l'abbassamento a tutti i soggetti, iniziando per classi d'età o per genere, molti sostengono che sia in palese, totale, inammissibile violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 23 e 53 che disciplinano poi il prelievo fiscale nella nostra Costituzione, e quindi è un problema molto delicato. Certo, se non si fa così, dici tu, come si fa a riequilibrare il più del problema concentrato invece esattamente su queste classi d'età? Questa è una bella domanda, perché chi obietta agli interventi ad hoc concentrati su classi generazionali, quelli fiscali per esempio, di solito dice no, bisogna smontare gli ostacoli all'ingresso, bisogna abolire gli albi, bisogna abolire il valore legale del titolo di studio, bisogna dare una grande spianata ai meccanismi che fanno della relazione e non della selezione per merito il vero ostacolo all'ascensore sociale per le giovani generazioni. Sono due impostazioni che io non vedrei confliggenti. Il problema è farne un abile mix e anche cambiare. Io sono dell'idea, ero contrario alle quote rosa, l'ho sempre detto, sempre stato contrario, fino a che secondo me in questo problema c'è un tappo tale che dico facciamo una sunset law, cioè una legge che abbia nel suo apparato fin dall'inizio un termine temporale non troppo lungo che vada in scadenza, ma che per 10 anni obblighi ad alzare le quote. E io credo che anche l'interpretazione della Costituzione, gli articoli 2, 3, 23 e 53 su questo tema, di fronte alla necessità di non lasciare in mutande davvero due, tre generazioni di giovani, debba porsi il problema anche di superare il problema dell'eguaglianza, perché altrimenti come lo rimettiamo in piedi un paese così squilibrato? Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi andiamo alle misure concrete che vengono dall'amarezza, che è la prima parte del libro di Pierluigi Celli. Eccoci tornati in studio e con Pierluigi Celli abbiamo visto l'amarezza, l'occasione, i temi, abbiamo sentito il ministro Meloni quanto poi sia difficile davvero avere l'attenzione giusta al di là dei momenti di polemica, abbiamo sentito però che in Parlamento su questo ci sono anche delle convergenze bipartisan, abbiamo iniziato a analizzare quali sono le prospettive di interventi generali, rimuovere gli ostacoli all'ingresso o concentrarsi anche su interventi ad hoc per evitare che poi il più della pressione anti-ascensore sociale vada soprattutto sui giovani e sulle giovani donne. In concreto però, nell'ambito di cui poi è responsabile lei dell'organizzazione, che cosa è stato possibile fare in questi anni? Dunque, io credo che ci sono molte cose che si possono fare. Per aiutare un'università, una cosa che si può fare, risolverebbe anche altri problemi, è utilizzare manager in fine carriera e ospitarli in università e fare in qualche modo delegare a loro l'orientamento al lavoro di quelli che stanno finendo l'università, l'organizzazione di gruppi per competenze in maniera tale da prepararli eccetera eccetera, cosa che si può fare, abbiamo sperimentato qui, si può fare tranquillamente, e questo risolverebbe anche il problema di liberare posti in impresa con passaggi laterali dei manager in fine carriera che hanno esperienza che possono portare in università. Una seconda cosa è pensare che in queste condizioni di lavoro bisogna favorire al massimo la capacità imprenditoriale dei ragazzi e quindi farli lavorare attorno a idee imprenditoriali. La cosa la stiamo facendo in questa università, si fa in altre università. Io oggi vado a Caserta a incontrare il presidente della provincia e il presidente delle associazioni industriali per trasferire a Caserta un laboratorio che abbiamo sperimentato qui in università in questi mesi e che ha funzionato bene, ed è un laboratorio che lavora sulle idee dei ragazzi. La terza cosa che si può fare, soprattutto per quanto riguarda il Sud, è tentare di riportare al Sud molti dei ragazzi che vengono a studiare al Centro-Nord, perché altrimenti il Sud noi lo improveriamo. Noi abbiamo chiamato controesodo questo fenomeno e stiamo lavorando con loro alla realizzazione di alcune imprese, convogliando poi dopo risorse che vengono da privati e dalle istituzioni pubbliche. È partito un grande progetto che si sta realizzando, che si chiama Italia Camp, che ha visto la presenza di migliaia di studenti di tutte le università, ha consorziato quasi 44-45 università tra italiane e estere, attorno alla costruzione di idee da realizzare per il paese, con l'occasione del 150° anniversario. È partito da Roma, poi è stato a Lecce, il 3 febbraio sarà a Bruxelles, radunerà gli italiani che stanno all'estero attorno a idee da in qualche modo implementare poi in Italia, tornerà, poi passerà a Milano e terminerà poi il progetto terminerà a Roma a maggio. È un progetto molto ambizioso che sta funzionando molto bene, totalmente in mano ai ragazzi, organizzato dai ragazzi e sponsorizzato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, che lo ha, come dire, adottato dall'inizio con grande entusiasmo. Si possono fare tante cose. Bisogna far funzionare le idee, avere un po' di coraggio, non preoccuparsi tanto delle reazioni che inevitabilmente ci saranno, però si possono fare. E bisogna soprattutto dare ai ragazzi, vuol dire, l'orgoglio di provarci. Allora, io su questo, adesso c'è un ascoltatore, poi ho una domanda secca che vi farò dopo l'ascoltatore a tutti per una risposta secca, per arrivarci alla conclusione. Sentiamo Alfredo intanto che ci chiama da Milano. Prego Alfredo. È caduta la linea di Alfredo, peccato, perché credo che la telefonata mi era stata segnalata su un tema che mi consentiva di arrivare al punto, perché Alfredo da Milano mi era stato segnalato con due figli già laureati all'estero che non rientrano malgrado gli incentivi fiscali di cui ha parlato nella prima parte della trasmissione. Perché? Perché io ve lo dico con grande sincerità, quando mi andai a fare master fuori ci sono andato troppo tardi, non ho dato retta a chi mi diceva che era meglio concentrarsi nella formazione prima. Io ho sempre dovuto lavorare, quindi lavoravo, studiavo e poi quando sono andato a prendere il master ho capito che era troppo tardi e me ne sono molto doluto, perché molto probabilmente io in Italia non ci sarei tornato. E ci resto qua, faccio il mio mestiere. Ma la domanda che faccio, tornando quindi dalla lettera di Pierluigi Celli, che, da cui poi trae ispirazione il libro Generazione Tradita, di cui abbiamo parlato con lui oggi, e inizio a farla con Alessia Mosca seccamente, ma se avessi un figlio oggi, lei non lo manderebbe forse all'estero dicendo pensaci bene prima di tornare, Alessia? Ma io lo manderei certamente all'estero, con l'idea che il fatto che l'estero sia una schiavitù, però liberare, nel senso che nella mia idea i talenti devono essere in movimento, non c'è nella nostra legge la necessità o la volontà di richiamare qui per provincialismo tutti quanti, perché il fatto di andare all'estero accresce le potenzialità, eccetera. Il problema del nostro paese è che noi perdiamo in termini assoluti laureati molto più di quanti ne sappiamo attrarre. Questo è il punto, e quindi noi siamo in un trend simile a quelli dei paesi che noi chiamiamo ancora in via di sviluppo, di depauperamento, e che sono caratterizzati da un impoverimento del capitale umano. Questa è la verità. Giustamente, perciò noi abbiamo Alessia dice ci vuole una grande idea di mobilità mondiale, ma è così, questa è una visione giusta. Però io richiedo anche al ministro, a Giorgia Meloni, Meloni è giovane, quindi non c'è il problema di avere figli in età universitaria o post-universitaria. Ma nell'Italia di oggi, per la responsabilità che hai tu, per la testa dura che c'hai e per le volte che Giulio Tremonti ti ha guardato storto tutte le volte che gli hai sollevato un problema, perché lui poi c'ha le risorse a breve che non le vuole dare a nessuno, ma tu, se avessi secondo te un figlio alla fine del liceo e ti dicesse ma io me ne vado all'università all'estero e qui non ci torno più, te la sentiresti di dire sbagli? Sì, francamente me la sentirei, nel senso che dunque io penso che sia una esperienza che noi piano piano dobbiamo lavorare per far fare a ciascun ragazzo in Italia, cioè quello su cui a me piacerebbe lavorare, ci ragiono da anni, ok, perché è una cosa molto difficile poi nella realizzazione pratica, è allargare la filosofia Erasmus, tra virgolette, cioè costruire un sistema per il quale a un certo punto praticamente qualunque ragazzo italiano faccia una piccola parte della propria formazione all'estero, perché credo che come ti può formare un'esperienza di quel tipo, anche solo rispetto a te stesso, non ti forma nient'altro. Ma dimmi la verità, tu gli diresti torna, vale la pena di tornare nell'Italia di oggi? Assolutamente sì, torna, vale la pena di tornare, e anche vale la pena di tornare perché ricordiamoci, Oscar, che l'Italia non è fatta semplicemente da chi la governa, l'Italia è fatta da ciascun italiano. Questo da sono d'accordo. Chiunque ci metta un pezzo della propria entusiasmo, del proprio questo genere, sono della molto propria d'accordo. Determinazione. Ecco, allora se questa è la risposta, scusami, ci sto. Dico solo questa cosa velocemente. Ricordiamoci, noi celebriamo il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La particolarità del Risorgimento italiano è che è stato fatto da ragazzini. L'Italia è stata fatta da ragazzini. E ahimè, poi responsabilmente. Ok, allora se la mettiamo così, sì. E penso anche a chi oggi sta votando a Mirafiori, perché sulla cui vita e su cui soldi io vengo da Mirafiori. Ieri sera mi sono commosso al TG3 e mi dispiace, mi commuovo sempre quando parlo del mio quartiere, perché lì è un'altra parte d'Italia su cui si sono concentrati poi i costi di riaggiustamento, eh? E lo dico dalla radio di Confindustria. Pierluigi Celli oggi ai suoi figli direbbe: torna in Italia. Non sto parlando di quelli davvero su eccetera eccetera, dico in generale, torniamo su quel tema di quella lettera. Cosa direbbe? Io credo che la lettera diceva andate all'estero come provocazione, ma finiva col figlio che dice io resto comunque. Mio figlio è arrestato, lavora a Torino, vedi un po' in questi giorni, il luogo eponimo proprio, è una specie di topos. No, io credo che bisogna lavorare e tornare per questo paese. Il problema reale è creare le condizioni per cui sia possibile lavorare con onore in questo esatto. paese. E io credo che per fare questo ci voglia il cuore di cui ha parlato Giorgio Meloni, ci vuole l'apertura bipartisan di parlamentari come Alessia Mosca del PD, apertura bypass che va sui problemi, e ci vuole anche il fegato di rischiare, come spesso Pierluigi Celli ha rischiato nella sua vita, e tante volte gli hanno detto ti cacciamo. A me piacciono le persone così, mi dispiace, e penso che così i giovani si possono formare meglio fuori, ma tornare, perché c'è qualche cosa in cui credere, l'anima, non ci vogliono solo semplicemente gli interessi di parte, è l'anima quello che dà il futuro a un paese come il nostro, se ancora ne abbiamo uno, speriamo di sì. Appuntamento a domani, linea al Giornale Radio.